Vademecum legale contro gli abusi in divisa. Capitolo 3. Forme di auto-organizzazione. Capitolo 3.1. Associazionismo e organizzazioni legalmente riconosciute. Collettivi e centri sociali, del dottor Marcello Ricciuti. Secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione, tutti i cittadini hanno il diritto ad associarsi liberamente senza dover chiedere alcuna autorizzazione preventiva alle istituzioni pubbliche. Alla libertà di associarsi, infatti, sono posti esclusivamente due limiti. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare e quelle che perseguono fini vietati dalla normativa penale. Oltre a tali limitazioni, la normativa non pone alcun limite e non impone nessuna particolare procedura, salvo il rispetto delle disposizioni del codice civile qualora si voglia dare carattere formale all'associazione. I collettivi e i centri sociali, quando non abbiano acquisito la forma dell'associazione disciplinata dalla normativa, sono espressione quindi del più ampio diritto di associarsi previsto dalla nostra Costituzione. Si tratta infatti di espressione della libera aggregazione tra più persone, che molto spesso si prefigge al fine di perseguire finalità culturali e sociali. Le stesse considerazioni si possono compiere anche laddove tali realtà nascano per esprimere le proprie contestazioni. Infatti, in tali casi, a essere tutelata è la libera manifestazione del pensiero, anch'essa garantita a livello costituzionale. Costituzionalmente è garantito anche il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Infatti, per riunirsi non è di norma richiesta alcuna formalità e non vi è alcuna procedura di comunicazione all'amministrazione da osservare. Le uniche limitazioni sorgono per le riunioni organizzate in luogo pubblico. In tal caso sarà necessario informare le autorità che non potranno in nessun modo limitarle se non per motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Per citare alcuni esempi e tipologie di centri sociali, si può certamente fare riferimento ai centri sociali autogestiti, CSA, i centri popolari autogestiti, CPOA, ai centri sociali occupati autogestiti, CSOA. Con riferimento a quest'ultima tipologia, occorre precisare che per il nostro ordinamento l'occupazione è un reato, in quanto lesiva degli interessi dei proprietari degli immobili occupati. Non mancano comunque casi in cui le amministrazioni hanno scelto di legalizzare le occupazioni quando gli immobili interessati appartenevano alla pubblica amministrazione, ritenendo socialmente utile l'attività svolta nello stesso. In definitiva, i cittadini che decidono di associarsi per motivi leciti possono sia optare per una delle forme di associazione disciplinate dalla normativa, sia associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione. Associazione di promozione sociale, APS, del dottor Marcello Ricciuti. Associazioni di promozione sociale, denominati APS, rientrano successivamente alla riforma del terzo settore tra i cosiddetti ETS, enti del terzo settore. Le APS quindi sono enti costituiti sotto la forma dell'associazione e possono essere riconosciute o non riconosciute a seconda della volontà degli associati. Il numero minimo per la costituzione delle APS è di 7 persone fisiche. Con riferimento all'oggetto sociale, le APS possono essere costituite esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale enumerate dalla normativa di riforma del terzo settore. Nello specifico si tratta di attività che intervengono in ambiti di rilevanza sociale, come ad esempio le prestazioni sociosanitarie e la formazione extrascolastica, la promozione della legalità e la pace, l'agricoltura sociale, l'accoglienza umanitaria, il reinserimento lavorativo. Lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale elencate dalla normativa è possibile per le APS solo laddove le attività svolte siano comunque strumentali alle attività elencate. Come si può notare, si tratta di attività caratteristiche del settore no profit e per tale motivo le APS sono caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro. Le associazioni di promozione sociale, oltre alle attività svolte dai propri associati, possono anche avvalersi di collaborazioni esterne o assumere lavoratori mediante contratti di lavoro subordinato. Sotto questo ultimo profilo, però, la normativa di riferimento prevede dei limiti quantitativi e proporzionali. Infatti, per lo svolgimento delle loro attività, le APS devono avvalersi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività dei lavoratori dipendenti e dei prestatori di lavoro autonomo deve comunque essere necessariamente svolta per il perseguimento dell'attività statutaria delle APS. Per la costituzione delle associazioni di promozione sociale è necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa legislativa di riferimento. Atto costitutivo e statuto. L'atto costitutivo e lo statuto, infatti, devono prevedere l'assenza dello scopo di lucro, le finalità solidaristiche, una o più delle attività di interesse generale elencate dalla normativa, il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili dell'associazione e le norme riguardanti gli organi amministrativi e la destinazione del patrimonio allo scioglimento. Registro degli ETS. Successivamente alla riforma del terzo settore, anche le APS, che ad oggi sono iscritte in un apposito registro, dovranno iscriversi al registro degli ETS. Infine, per le APS sono previste una serie di agevolazioni fiscali, tra cui ad esempio l'esenzione dalla base imponibile dei contributi corrisposti dagli associati, accesso al credito agevolato per attività per i progetti di interesse pubblico e accesso ai finanziamenti statali. ONLUS, del dottor Marcello Ricciuti. Le ONLUS sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In realtà la qualifica di ONLUS può essere acquisita dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato. Quanto di seguito si applicherà fino a quando non sarà attivo il registro unico del terzo settore in applicazione della riforma. Si tratta infatti di una qualifica che permette a chi ne faccia richiesta e possegue i requisiti necessari di avere un particolare regime fiscale di vantaggio. Per poter acquisire la qualifica di ONLUS occorre svolgere attività indirizzate ad obiettivi di utilità sociale. Le attività sono elencate a scopo non esaustivo dalla normativa legislativa di riferimento. Tra le stesse si ritrovano ad esempio la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, la promozione della cultura e dell'arte, l'istruzione, la formazione o ancora la tutela dei diritti civili e l'assistenza sanitaria. In alcuni casi la qualifica di ONLUS viene acquisita di diritto, è il caso ad esempio delle organizzazioni di volontariato, ODV, e delle organizzazioni non governative, ONG. L'acquisizione della qualifica di ONLUS è comunque collegata al rispetto dei requisiti. Oltre all'attività primaria a scopo di utilità sociale, le ONLUS possono svolgere attività connesse, accessorie e solitamente indirizzate ad ottenere finanziamenti economici sotto varie forme. Ad esempio attività di autofinanziamento e sensibilizzazione, vendita di oggetti di modico valore. Come si evince dal nome, le ONLUS rientrano a pieno titolo nella categoria degli enti senza scopo di lucro, la cui attività quindi non deve avere la forma dell'imprenditorialità. Per acquisire la qualifica di ONLUS è imposto il rispetto di alcuni prerequisiti fondamentali, come ad esempio inserire nello statuto e nell'atto costitutivo lo svolgimento principale ed esclusivo delle attività elencate dalla normativa e il divieto di distribuire, anche in via indiretta, gli utili di gestione. Come già accennato, la qualifica di ONLUS attiene e interessa principalmente gli aspetti tributari e fiscali nei confronti degli enti. Acquisire tale qualifica permette ad un ente, ad esempio, l'esenzione delle imposte di bollo, dalla tassa di concessione governativa, dai tributi locali e altre agevolazioni previste per gli enti non lucrativi di utilità sociale. Organizzazioni di volontariato, ODV, del dottor Marcello Ricciuti. Come anticipato in tema di associazioni di promozione sociale e ONLUS, anche le organizzazioni di volontariato sono state interessate dalla riforma del terzo settore. Come accennato, la normativa stabilisce comunque che, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti. Rientrano tra le organizzazioni di volontariato gli enti che, rispettando i requisiti richiesti per l'inserimento nel relativo registro, svolgano le proprie attività a titolo solidaristico a favore di persone terze. Anche successivamente alla riforma, quindi, per poter acquisire la qualifica di organizzazione di volontariato, è necessario il rispetto di alcuni prerequisiti. Infatti, come per le associazioni di promozione sociale, anche le ODV vengono identificate quale enti del terzo settore costituiti da un numero non inferiore a 7 persone, nella forma dell'associazione riconosciuta e non. Oltre a tali requisiti, le organizzazioni di volontariato devono svolgere la propria attività in assenza di fini di lucro, non avendo le caratteristiche degli enti imprenditoriali. Come per le APS, quindi, alle ODV è fatto espresso divieto di distribuzione, anche in via indiretta, degli utili di gestione. È evidente che, successivamente alla riforma, Le differenze che intercorrono tra le APS e le ODB rimangono poche, trattandosi in entrambi i casi di enti del terzo settore. Le differenze non si riscontrano nemmeno in riferimento alle attività svolte. Infatti, entrambe le tipologie di enti possono svolgere le attività di interesse generale elencate dalla normativa di riferimento. La caratteristica che distingue le due categorie risiede da un lato nei destinatari delle attività svolte, che nel caso delle APS vengono identificati nei propri associati, loro familiari e terzi, e invece per le ODB vengono identificati principalmente e prevalentemente con soggetti terzi. Dall'altro lato, la caratteristica distintiva forse più pregnante risiede nella possibilità o meno di assumere i propri associati. Infatti, mentre per le APS tale ipotesi è espressamente prevista, per le ODB non altrettanto. Deve ritenersi quindi che le ODV, oltre che avvalersi dell'attività prevalentemente svolta dai propri volontari, possono assumere lavoratori o avvalersi di collaboratori esterni che non facciano parte dell'associazione. Imprese sociali del dottor Marcello Ricciuti. In tema di imprese cooperative sociali, la normativa di riferimento è stata ancora una volta rinnovata tramite la riforma del terzo settore. La qualifica di impresa sociale può essere acquisita da tutti gli enti privati, comprese le società, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non possono acquisire tale qualifica, invece, le società costituite da un unico socio e quegli enti che limitano l'erogazione dei beni e dei servizi esclusivamente ai propri soci o associati. Le attività svolte dalle imprese sociali sono elencate dalla normativa, che ad esempio richiama gli interventi e le prestazioni di tipo sanitario, educazione, istruzione e formazione professionale. La caratteristica di impresa sociale può acquisirsi inoltre laddove l'ente, indipendentemente dal proprio oggetto, occupi lavoratori molto svantaggiati o con disabilità nella misura almeno del 30%. Altro aspetto peculiare delle imprese sociali è l'assenza di scopo di lucro, che però deve essere definita in riferimento alla normativa vigente. Infatti, la distribuzione di dividendi ai soci non è totalmente vietata, ma deve essere calcolata sul 50% degli utili di gestione. Altro aspetto rilevante riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti alle decisioni riguardanti le attività svolte dall'impresa. La normativa stabilisce infatti che tale coinvolgimento permetta ai lavoratori, agli utenti e altri soggetti direttamente interessati di poter avere un'influenza sulle decisioni dell'impresa, soprattutto laddove trattino le delle condizioni di lavoro o la qualità dei beni e dei servizi erogati. Sotto il punto di vista del controllo del rispetto dei requisiti per il mantenimento della qualifica di impresa sociale, la normativa prevede il controllo pubblico diretto mediante delle ispezioni a cadenza almeno annuale che permettono di valutare la permanenza dei requisiti per mantenere la qualifica. Il mantenimento della qualifica è infatti propedeutico alla fruizione dei benefici fiscali conseguenti. Benefici fiscali. Le imprese sociali infatti usufruiscono di notevoli benefici, come ad esempio la detassazione degli utili di impresa destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, la detrazione di imposta del 30% sulle somme investite nel capitale sociale, o sotto altro profilo, la possibilità, al contrario di altre imprese, di raccogliere capitale di rischio tramite piattaforme di crowdfunding. Cooperative sociali, del dottor Marcello Ricciuti. Quando si parla di cooperative sociali, ci si riferisce a quelle cooperative che abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale. Si tratta di soggetti a carattere mutualistico prevalente. Tale caratteristica è presunta laddove lo statuto della cooperativa sociale rispetti i requisiti normativi, prevedendo ad esempio il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale. In particolare, tra le attività che le cooperative sociali possono svolgere, vi sono anche l'agricoltura, l'industria e il commercio, se finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nelle cooperative sociali occorre distinguere tra soci ordinari, soci volontari, identificando questi ultimi con i soci che prestino la loro attività a titolo gratuito e ai quali perciò potrà essere esclusivamente riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La qualifica di cooperativa sociale permette di usufruire di alcuni regimi di vantaggi disciplinati dalla normativa di riferimento. A livello tributario in particolare, le cooperative sociali usufruiscono di vantaggi su IRES, IRAP, IVA.